Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari ascoltatori, un caro saluto a ciascuno di voi unito ad un augurio pasquale. Ci accompagna in questo tempo pasquale delle pagine, la parola di Dio con delle pagine molto ricche, molto belle, e una di queste è proprio la pagina del Vangelo che abbiamo ascoltato ieri. Avremo modo di riprenderlo durante la nostra trasmissione, anche se il testo su cui ci soffermiamo ci riporta per certi aspetti ai testi che abbiamo ascoltato durante la settimana di Passione, Morte e Risurrezione di Gesù. Nel nostro percorso di lezio continua del Vangelo di Marco siamo infatti arrivati al capitolo 14. La volta scorsa ci siamo lasciati nel momento in cui abbiamo assistito alla fuga generale dei dodici dopo l'arresto di Gesù nel Getsemane. Ecco, la puntata di questa sera si soffermerà sul primo momento del processo a Gesù, il processo del Sinedrio. Quindi leggeremo e commenteremo insieme i versetti del capitolo 14 di Marco che vanno dal 53 fino al 72. A coloro che hanno la possibilità chiedo come sempre di prendere tra le mani un'edizione della Bibbia o dei Vangeli e di tenerla aperta sotto gli occhi mentre noi cercheremo di commentare insieme questa pagina. Questa sera chiedo l'aiuto nella preghiera, nell'invocazione allo Spirito Santo a quanti di voi stanno viaggiando. Ecco, penso sia un segno molto bello per tutti noi, a volte gli interventi di voi che siete in macchina, che siete in camion, che siete sull'autostrada e che vivete questo momento di lavoro o di viaggio proprio lasciandovi accompagnare dal clima della meditazione e della preghiera che caratterizza le trasmissioni di Radio Maria. È una testimonianza bella ed è un modo di sentirci l'unico corpo vivo di Cristo che resta in ascolto della sua parola di vita. La nostra stessa trasmissione, con il titolo La tua parola mi fa vivere, ha proprio questo obiettivo, quello di sentire questa parola viva e dinamica dentro di noi, una parola che non parla solo alla nostra testa, ma che entra nel cuore e plasma la vita. Bene, detto questo, possiamo subito entrare nell'ascolto della parola di Dio. Il processo al Sinedrio si può suddividere in tre momenti nel Vangelo di Marco. Il primo momento ha per protagonista il sommo sacerdote, o meglio le autorità religiose. Il secondo momento ha per protagonista il faccia a faccia tra il sommo sacerdote e Gesù, con una domanda dalla portata enorme, come avremo modo di vedere, e il terzo momento per protagonista Pietro, nella famosa scena del rinnegamento. Abbiamo in altre parole tre confronti, tre faccia a faccia, il faccia a faccia tra le autorità religiose e Gesù, il faccia a faccia tra il sommo sacerdote e Gesù e il faccia a faccia finale tra Pietro e la serva o coloro che comunque sono fuori nel cortile e che confrontano Pietro con la sua identità. Sarà proprio questa ultima parte del testo di oggi che ci ricollegherà al brano del Vangelo che abbiamo ascoltato ieri e che diventa quindi significativo nel nostro percorso pasquale. Cominciamo ad ascoltare, a leggere e a commentare il primo brano. Condussero Gesù dal sommo sacerdote, dove si radunarono tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani e gli scribi. Pietro lo aveva seguito da lontano fino all'interno del cortile del sommo sacerdote. Si era seduto con i servi e si scaldava il fuoco. Nel frattempo i capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non la trovavano. Molti infatti agivano da falsi testimoni contro di lui, ma le loro testimonianze non erano concordi. Alcuni, alzandosi, agirono da falsi testimoni contro di lui. Noi lo abbiamo sentito dire: distruggerò questo santuario costruito da mani umane e in 3 giorni ne edificherò un altro non costruito da mani umane. Ma nemmeno su questo la loro testimonianza era concorde. Ecco, questa è la prima scena. Notiamo che l'evangelista Marco tiene a sottolineare, a evidenziare che di fronte a Gesù si raduna tutto il Sinedrio. Ecco, da un punto di vista storico sembra poco probabile una cosa del genere, cioè è poco probabile che tutto il Sinedrio, la notte della veglia pasquale, la famosa notte del banchetto di Pesach, del Seder pasquale, cioè quando tutta la famiglia si raduna insieme ai più piccoli facendo memoria dell'Esodo, è una notte particolare, eh? Quindi è strano che in quella notte tutto il Sinedrio si raduni, si sia riunito a casa del sommo sacerdote, che tra l'altro non era il luogo per la convocazione, per convocazioni di questo tipo, per istituire un processo a Gesù. Però ciò che per noi è importante è cogliere il messaggio che l'Evangelista vuole evidenziare. L'Evangelista Marco tiene a sottolineare che la morte di Gesù in croce coinvolge le realtà umane nelle loro diversità e nelle loro totalità, per cui qui è tutto il Sinedrio ad essere coinvolto. Subito dopo, come vedremo la volta prossima, sarà tutto il mondo dell'autorità politica, quindi Pilato, i soldati, tutti coloro che ruotano attorno all'autorità politica di Gerusalemme. E infine tutti i discepoli sono coinvolti, ma l'abbiamo già visto, tutti i discepoli hanno abbandonato Gesù. Quindi c'è una sorta di responsabilità globale che tocca tutte le realtà umane presenti nel contesto del primo secolo. Marco tiene a sottolineare questo, come all'indomani della morte di Gesù cercherà di mettere in evidenza come la morte di Gesù riscatti tutte queste realtà umane. Quindi il racconto di Marco non punta la responsabilità su uno o sull'altro, tutti sono responsabili. Sono responsabili le autorità religiose, raffigurate qui da tutto il Sinedrio, le autorità politiche, raffigurate da Pilato e dai soldati, i discepoli stessi, raffigurati da tutti i 12, impersonati nella figura di Pietro. Anche qua c'è una sottolineatura che è tipica di Marco. Ogni realtà globale ha un suo rappresentante. I 12 hanno come rappresentante di spicco Pietro, le autorità politiche hanno come figura di spicco Pilato, le autorità religiose hanno come figura di spicco il sommo sacerdote. Notate quindi c'è una totalità di persone che sono coinvolte nella condanna a morte di Gesù. La responsabilità non cade su una sola persona, su una sola realtà, su un solo gruppo. Questo anche chiarisce subito alcuni fraintendimenti nell'interpretazione che si è dato al processo di Gesù lungo la storia, arrivando anche a delle accuse che non avevano nessun motivo di essere contro una realtà religiosa piuttosto che un'altra. Un secondo aspetto che merita di essere sottolineato è che questo processo avviene all'insegna della falsità. L'Evangelista Marco tiene a evidenziare che le persone che portano l'accusa, il capo di accusa contro Gesù, sono delle persone che per professione sono falsi testimoni, agiscono da falsi testimoni. Quindi a Marco non interessa il capo di accusa che viene rivolto nei confronti di Gesù, anche se, come vedremo, questo capo di accusa ha un suo significato. Ma qualsiasi cosa venga detta nei confronti di Gesù, quello che a Marco tiene a sottolineare è che il punto di partenza è sbagliato, perché il punto di partenza proviene da persone che agiscono da falsi testimoni. Quindi siamo di fronte ad un processo farsa, dove la farsa è scandita da alcuni segni evidenti. Il primo segno è appunto quello dei falsi testimoni, che non solo stanno giocando un ruolo, ma lo giocano pure male, perché mentre portano la falsa testimonianza non hanno nemmeno avuto il tempo di mettersi d'accordo tra di loro, per cui per ben 2 volte l'Evangelista Marco tiene a sottolineare che non erano concordi, le loro testimonianze non erano concordi e anche quando riportano la testimonianza sul Tempio, nemmeno su questo la loro testimonianza era concorde, lo ripete 2 volte, versetto 57 e versetto 59, per evidenziare come queste persone stanno giocando semplicemente un ruolo. Il secondo elemento della farsa in questo processo è la figura centrale, la figura del sommo sacerdote. Perché è un elemento della farsa? Perché questo sommo sacerdote, che dovrebbe essere il garante della verità e del discernimento, fa di tutto perché la verità e il discernimento non vengano appurate, non vengano indotte, al punto tale che nel momento in cui Gesù viene interrogato o Gesù viene accusato, non gli viene data possibilità di replica. Lo vedremo subito dopo. Gesù, nel momento in cui viene interpellato in prima persona dal sommo sacerdote e dà la sua risposta, è l'unico momento in cui Gesù interviene a parole nel processo che viene tenuto dal Sinedrio, non gli si dà la possibilità di appello. Gesù viene semplicemente condannato e il processo va subito avanti, portando poi Gesù da Pilato. Terzo elemento della farsa, che merita di essere preso in considerazione, è il tipo di falsa testimonianza che i testimoni portano contro Gesù. Alcuni alzarono, dice il versetto 57, agirono da falsi testimoni contro di lui dicendo: noi lo abbiamo sentito dire, distruggerò questo santuario costruito da mani umane e in tre giorni ne edificherò un altro non costruito da mani umane. Allora, se voi andate a leggere tutto il Vangelo di Marco, noterete che mai in nessun passaggio l'Evangelista riporta una simile affermazione da parte di Gesù, nemmeno al capitolo 13, quando viene narrata la famosa scena di Gesù che, dopo aver insegnato nel Tempio, si ritira sul Monte degli Ulivi con i suoi discepoli. I discepoli sono affascinati dall'immaginario che viene suscitato dal Tempio, dalle pietre del Tempio, gli dicono: guarda maestro, che belle pietre, che belle costruzioni, e Gesù risponde dicendo: di tutto quello che voi vedete non rimarrà pietra su pietra. Lì Gesù annuncia una sorta di distruzione del Tempio, ma non l'attribuisce a se stesso. Perché viene portata dai testimoni una testimonianza falsa di questo tipo? E perché questa testimonianza diventa qualche cosa di pesante nei confronti di Gesù? Per capire questo dobbiamo metterci nel clima del primo secolo. Nel clima del primo secolo, soprattutto in alcuni ambienti, non so se alcuni di voi ascoltatori hanno sentito parlare della comunità degli Esseni o delle comunità di Qumran, ecco, in questi ambienti c'era un atteggiamento critico nei confronti del Tempio, che a volte, in alcuni gruppi appartenenti a questi ambienti, diventava anche una critica molto radicale, che si traduceva nell'attesa di un Messia ben preciso. Il Messia che il Signore avrebbe mandato sarebbe stato un Messia che avrebbe distrutto il Tempio con le sue istituzioni per edificarne uno nuovo. Anzi, più che distruggere il Tempio in quanto tale, avrebbe distrutto il santuario, la parte più interna del Tempio, l'area sacra del Tempio, dove poteva entrare solo Israele. Ed è proprio questo termine che viene utilizzato dai falsi testimoni: distruggerò questo santuario costruito da mani umane e in tre giorni ne edificherò un altro non costruito da mani umane. Questa distruzione però doveva essere opera di Dio, non opera dell'uomo. Ecco perché nel momento in cui loro riportano le parole di Gesù in modo falso, usano la prima persona singolare. Cioè, secondo loro, Gesù avrebbe detto: distruggerò questo santuario costruito da mani umane e in tre giorni ne edificherò un altro. In altre parole, sottolineano che questa affermazione Gesù l'ha attribuita a se stesso, attribuendosi quindi un ruolo che di per sé nella tradizione storica apparteneva esclusivamente a Dio. Quindi Gesù avrebbe agito con queste parole, anche se sono parole false, attribuendosi un'identità troppo vicina a Dio. In questo senso l'accusa era pesante nei suoi confronti. Al di là della verità o meno di questa affermazione, perché l'Evangelista Marco riprende tra le tante false accuse che sono state rivolte nei confronti di Gesù proprio quella sul Tempio? perché a Marco sta a cuore un aspetto importante, che non è la prima volta che incontriamo. Di fatto già al capitolo 13 noi abbiamo avuto modo di incontrare questo tipo di accusa, ed è la visione della comunità. Per Marco il luogo in cui l'uomo incontra Dio non è il tempio inteso come l'edificio di pietre, ma è la comunità che il Signore costruisce. Quindi nel momento in cui viene richiamata questa profezia, distruggerò questo santuario costruito da mani umane e in 3 giorni ne edificherò un altro non costruito da mani umane, viene evocata l'azione del Signore, l'azione di Cristo che distrugge, che annuncia la distruzione dell'edificio di pietre, ma assicura la costruzione di un altro edificio, non più di pietre, che è l'edificio comunitario. Lì nell'edificio comunitario il Signore manifesterà la sua presenza. Ed ecco allora che in questa prima parte del processo davanti al Sinedrio emerge già l'obiettivo di Gesù. L'obiettivo di Gesù non è quello di costruire chiese, santuari, edifici di pietre, cappelle, cappelline, edicole, tutte cose che per carità sono importanti, ma l'obiettivo del Signore è quello di costruire comunità vive dove il risorto vive in mezzo a loro. Se la comunità non è viva, ci può essere il tempio più bello, il santuario più bello, la cappella piena di marmi più bella di questo mondo, ma quella realtà è morta come quel tempio di cui si annuncia la distruzione. E allora vedete bene su cosa si gioca la prima parte del processo del Sinedrio. Il Sinedrio, di fronte a questo processo del Sinedrio, l'Evangelista Marco sta dicendo a tutto il Sinedrio radunato, dicendo che la religiosità e gli atti cultuali che loro stanno portando avanti sono atti morti. E quello che il Signore invece vuole costruire è una comunità viva, ma questo è possibile solo se ciascuno si lascia in qualche modo mettere in discussione dal Signore. Ora, lasciamo un breve stacco musicale in modo che ciascuno di voi ascoltatori può rileggere questi versetti prima di procedere nel secondo faccia a faccia, quando di fronte a questi falsi testimoni, al tipo di accusa che è stata portata, il sommo sacerdote prende la palla al balzo e prende lui in mano la situazione ponendo una domanda ben precisa a Gesù. Ma prima di procedere facciamo questo breve stacco musicale che ci permette un attimo di interiorizzare quanto ci siamo detti. Ecco, dopo quindi questa prima parte del processo al Sinedrio, vi dicevo, il sommo sacerdote prende in mano la situazione. Allora ascoltiamo la seconda scena che va dai versetti 60 a 65. Come vedete viene mantenuta l'unità del luogo e l'unità del tempo, quindi questo è il motivo anche per cui leggiamo tutte queste scene nella stessa puntata. Allora ascoltiamo questi ulteriori 6 versetti. Alzandosi e ponendosi in mezzo, il sommo sacerdote interrogò Gesù: «Non rispondi nulla. Che cosa testimoniano costoro contro di te?» Egli però taceva e non rispondeva nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò: «Sei tu il Messia, il figlio del Benedetto?» Gesù rispose: «Sono io. E vedrete il figlio dell'uomo assiso alla destra della potenza e venire sulle nubi del cielo». Allora il sommo sacerdote, strappandosi le vesti, disse: «Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Avete udito la bestemmia, che ve ne pare?» Tutti allora lo giudicarono reo di morte. Alcuni cominciarono a sputargli addosso, a coprirgli il volto e a percuoterlo dicendo: «Profetizza!» Anche i servi lo presero a schiaffi. Ecco, questa è la seconda scena del processo al Sinedrio. Notiamo subito che di fronte, la prima scena vede intervenire diversi falsi testimoni, a un certo punto la situazione viene presa in mano proprio dal sommo sacerdote. Il testo ci dice che il sommo sacerdote si alza e si mette in mezzo. La posizione dell'essere in piedi e dell'essere al centro indica che la situazione sta diventando calda, delicata, perché la posizione del sommo sacerdote è quella deliberatoria, cioè è quella in cui viene presa una decisione. E il sommo sacerdote si pone davanti a Gesù con una domanda ben precisa: non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te? Gesù non risponde. Perché Gesù non risponde a questa provocazione mentre risponde alla seconda? La risposta è semplice: non risponde alla prima domanda, che cosa testimoniano costoro contro di te, semplicemente perché le testimonianze che sono state addotte fino a questo momento sono false. Il non rispondere significa non riconoscere alcuna autorevolezza a quelle parole che sono state dette contro di lui. È inutile difendersi da un'accusa che non ha nessun senso di verità, anche se questo può esporre ad alcuni rischi. Quindi Gesù decide principalmente di non rispondere, e a questo punto il sommo sacerdote fa la domanda è attorno alla quale scatta poi la condanna a morte di Gesù: sei tu il Messia, il figlio del Benedetto? Notate l'espressione il figlio del Benedetto. Benedetto era un modo per evitare il nome di Dio, per evitare di dire il figlio di Dio, e quindi per manifestare una sorta di devozione nei confronti di colui che resta innominabile da parte dell'uomo, quindi una sorta di riverenza nei confronti di Dio. Evitando di dire il nome e sostituendolo con un'altra espressione, il Benedetto, è un modo allo stesso tempo di mettere in evidenza la domanda che il sommo sacerdote fa. Il sommo sacerdote colpisce Gesù in un punto ben preciso: gli chiede se è il Messia, il Cristo, quindi colui che il popolo attende, e se la sua identità è quella di essere il figlio di Dio, il figlio del Benedetto. E la risposta di Gesù non poteva essere più chiara di quella che viene data, e anche più pericolosa di quella che viene data, tanto vero che porta alla condanna a morte, perché Gesù per tre volte ripete con l'espressione che abbiamo ascoltato, dice di sì, però lo dice in tre modi diversi e lo ripete tre volte. La prima volta dicendo sono io, la seconda volta evocando la scena del figlio dell'uomo assiso alla destra della potenza, e la terza volta parlando del figlio dell'uomo che viene sulle nubi del cielo. Perché dico che Gesù risponde con un triplice sì? Perché nella prima volta, quando dice sono io o io sono, Gesù non fa altro che evocare il nome impronunciabile di Dio che era stato rivolto a Mosè nella scena di Esodo 3. In Esodo 3, quando Mosè riceve la sua chiamata, nel contesto, nella famosa scena del roveto ardente, di fronte alla vocazione che gli viene affidata, Mosè ha tutta una serie di resistenze, e una di queste, se non ricordo male, è la seconda. Mosè dice: sì, tu mi mandi dagli israeliti. Gli israeliti mi diranno: chi ti manda? Qual è il suo nome? E io cosa risponderò? E Dio risponde dal roveto dicendo: io sono, mi ha mandato a voi. Ora, di fronte alla domanda del sommo sacerdote, Gesù utilizza un sì ambiguo, non dice solo sono io, dice anche io sono, cioè risponde utilizzando per sé il nome di Dio, cioè riconoscendosi in questa espressione come figlio di Dio. Questa cosa viene ulteriormente rinforzata da come continua la frase, perché Gesù dice: vedrete il figlio dell'uomo assiso alla destra della potenza. Questa espressione richiama un salmo, il salmo che noi recitiamo tutti i secondi vespri delle domeniche, il salmo 110. Ricordate: oracolo del Signore, mio Signore, siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici a scabello dei tuoi piedi. In questo salmo viene evocata proprio la figura del Messia, colui che assiso alla destra di Dio, partecipa della potenza di Dio. Quindi Gesù, quando attribuisce a sé il titolo del figlio dell'uomo che è assiso alla potenza del Padre, non solo si riconosce come appartenente alla sfera divina, ma riconosce su di sé tutta la potenza creatrice di Dio, tutta la potenza giudicante di Dio, figlio dell'uomo assiso alla destra della potenza. E poi, terza conferma, viene utilizzata quest'ultima espressione, venire sulle nubi del cielo. Diversamente dal libro di Daniele, a cui si aggancia quest'ultima parte della frase, Gesù inversa un pochino, cambia un pochino, modifica un pochino i termini, perché il figlio dell'uomo di Daniele torna al cielo, torna da Dio, portando le intercessioni del mondo. Il figlio dell'uomo che viene evocato invece da Gesù scende dalle nubi del cielo per giudicare il mondo, quindi ha dentro di sé la pienezza proprio del potere giudicante di Dio. Ecco allora che Gesù con la sua risposta si identifica in modo forte con la sfera divina. La sua risposta, dicevo, non poteva essere più chiara, non poteva essere più pericolosa. Tanto vero che il sommo sacerdote si strappa le vesti, attenzione, non sono le vesti liturgiche, perché non è al Tempio, siamo nella casa del sommo sacerdote, quindi sono le vesti che indossava in quel momento. Il gesto però è forte, il gesto dello stracciarsi le vesti indicava l'aver assistito a un oltraggio tale che minava l'identità dell'uomo. Il vestito è ciò che dà dignità all'uomo. Strapparsi il vestito significa attestare un atto che rompe la dignità dell'uomo. Quindi la bestemmia di Gesù è stata tale che ha minato la dignità dell'uomo, e non solo la dignità dell'uomo, perché chi compie questo gesto è il sommo sacerdote, è l'identità religiosa di Israele che viene ad essere minata e che porta alla condanna a morte di Gesù. Tutti allora lo giudicarono reo di morte. Capite allora che Gesù non viene condannato a morte a questo punto per quello che ha detto durante il suo insegnamento pubblico o per quello che ha fatto durante il suo insegnamento pubblico, ma viene condannato a morte per quello che Gesù è, per la sua identità. Gesù viene condannato a morte per essere il Cristo, il Figlio di Dio. Ciò che dà fastidio alle autorità religiose è il fatto che quest'uomo che loro hanno davanti non può essere classificato, non può essere catalogato, non può essere ridimensionato in un quadro preciso. Quest'uomo ha la pretesa di essere Dio. Quindi quella domanda che attraversa come un filo rosso tutta la narrazione del secondo Vangelo, tutta la narrazione del Vangelo di Marco, è di fatto l'elemento forte attorno alla quale viene deciso il destino di Gesù, viene stabilita la sua condanna a morte. Questo è importante per noi credenti oggi, perché noi rischiamo oggi di cadere su questo punto, cioè noi rischiamo oggi di fare come le autorità religiose, come gli scribi, i farisei, il sommo sacerdote, cioè quello che a noi interessa è di capire spesso chi è Gesù. E pensiamo di aver già capito tutto di lui. Facciamo un bel quadretto, lo incorniciamo, lo mettiamo al muro e diciamo: il mio Gesù è questo qua. Allora per alcuni è il Sacro Cuore, per altri è il Gesù della Divina Misericordia, per altri è il Gesù crocifisso, per altri è il Gesù che guarisce, per altri è il Gesù che compie miracoli, per altri è Gesù maestro. Il rischio quando si verifica? Quando quel quadro che viene affisso alla parete in senso spirituale o in senso fisico è un quadro fisso, cioè per noi Gesù è quello lì, punto e basta. Quello è il pericolo. Mentre notiamo dalle pagine dei Vangeli come la domanda su Gesù dall'inizio alla fine del Vangelo emerge sempre come un pugno nello stomaco. Se la nostra conoscenza di Gesù non resta aperta alla domanda chi è Gesù e al mistero che lui rappresenta, al punto tale che è un mistero che disorienta le nostre certezze religiose, se non restiamo aperti a questa dimensione, noi corriamo lo stesso rischio del sommo sacerdote, a cui dà fastidio il fatto che Gesù non possa essere classificabile. In questo senso, la lotta contro le immagini può avere un suo perché, può avere un suo significato, perché le immagini rischiano effettivamente di fissarci su una concezione del Maestro Divino, di Gesù, che lo limita, lo condiziona, è vincolata al nostro qui ed ora, ma che invece è destinata a cambiare. La vita cristiana, in tal senso, è un cammino di continua riscoperta dell'identità di Gesù. Il discepolato del cristiano è un continuo essere in cammino. Ogni giorno noi cogliamo e cerchiamo di tradurre nella nostra vita un tratto di Gesù, ma il tratto di Gesù che contemplavamo ieri non può essere lo stesso che contempliamo oggi o che contempleremo domani, perché è una conoscenza che si approfondisce come in qualsiasi relazione. Provate a pensare alle relazioni più care che voi avete nel vostro quotidiano. Ogni giorno si scopre qualcosa di inedito di una persona a cui si vuole bene. A volte può essere un inedito che ci fa soffrire, altre volte è un inedito che ci fa gioire, altre volte è un inedito che ci ispira la gratitudine, la riconoscenza, il desiderio di confrontarci, il desiderio di condividere, altre volte è qualcosa che magari ci lascia perplessi, ci lascia titubanti, ci lascia paurosi. Ma ogni giorno c'è un passo in avanti nella relazione, questo vale tanto più con il nostro Maestro, con il nostro Signore. Quindi vedete come anche la seconda parte di questo processo al Sinedrio è molto forte. Lasciamo ancora un breve stacco musicale in modo da riprendere questi altri sei versetti, il 60 e il 65, dal 60 al 65, prima di entrare nell'ultimo faccia a faccia di questo processo al Sinedrio, che avviene per correttezza, avviene proprio sotto la finestra di casa, nel cortile, dove viene a confrontarsi Pietro con uno di quei servi o di quelle serve che hanno appena insultato il suo maestro. Allora lasciamo un breve stacco musicale prima di riprendere la nostra narrazione, il nostro commento. Ecco, la terza scena, dopo quella del confronto con i falsi testimoni e il confronto con il sommo sacerdote, ci porta nel cortile della stessa casa, quindi l'ambiente è sempre lo stesso, nel cortile della stessa casa dove siamo confrontati con Pietro. Pietro aveva aperto la scena e ora anche la chiude. Siamo ai versetti da 66 a 72. Ascoltiamo il testo. Mentre Pietro si trovava sotto nel cortile, venne una delle serve del sommo sacerdote e, visto Pietro che si scaldava, fissandolo, gli disse: «Anche tu stavi con il Nazareno, Gesù?» Ma egli negò, dicendo: «Non so e non capisco quello che dici». Uscì quindi fuori nel vestibolo. La serva, guardandolo, cominciò di nuovo a dire ai presenti: «Questi è uno di loro». Egli però negò di nuovo. Poco dopo, quelli che stavano là dicevano a Pietro: «Tu sei davvero uno di loro, sei Galileo». Egli allora cominciò a imprecare e a giurare: «Non conosco l'uomo di cui parlate». Subito, per la seconda volta, un gallo cantò. Pietro si ricordò della parola che Gesù gli aveva detto: «Prima che il gallo canti due volte, tu mi avrai rinnegato tre volte». E, uscito fuori, piangeva. Ecco, questo è il terzo momento di confronto. Abbiamo visto, Gesù è stato condannato a morte dal sommo sacerdote e ora viene rinnegato praticamente da Pietro. Interessante la triplice l'espansione di questo rinnegamento, perché Marco lo costruisce con cura, lo costruisce con attenzione. Notiamo prima di tutto che ad ogni momento del rinnegamento Pietro cambia di posto. All'inizio nel cortile, poi esce un pochino fuori nel vestibolo e dopo il terzo rinnegamento esce proprio dalla casa per piangere. C'è un movimento di uscita, come se il triplice rinnegamento lentamente porta fuori Pietro dalla comunità di appartenenza e allontana Pietro dal suo maestro. È un procedimento, se volete, sono dei passaggi simbolici, ma che dicono bene quello che sta succedendo. Non solo, nel triplice rinnegamento Pietro non rinnega solo Gesù, ma rinnega la propria identità e rinnega il gruppo dei discepoli. Nel primo caso, quando la serva, fissando Pietro, gli dice: anche tu stavi con il Nazareno Gesù, lui dice: non so, non capisco quello che dici. Qui praticamente rinnega Gesù. La seconda volta, questi è uno di loro intende la comunità dei dodici, egli però negò di nuovo, quindi rinnega i dodici. La terza volta invece gli viene detto: tu sei davvero uno di loro, sei Galileo, viene praticamente toccato sulla sua identità di Galileo e lui inizia a imprecare e giurare, dicendo: non conosco l'uomo di cui parlate, chi è l'uomo di cui stanno parlando? Può essere inteso Gesù, certo, ma può essere inteso anche lui, può essere inteso anche lui come Pietro. Quindi Pietro rinnega Gesù, la comunità dei dodici e la propria identità di discepolo. Tutto quello che si era costruito in quei tre anni sembra andare interamente in frantumi. Rinnegare Gesù significa sempre rinnegare la comunità di appartenenza e rinnegare la propria identità più profonda. Il tutto è unito anche a come dire, un'accensione di parole. Sempre più parole, sempre di maggiori parole ha bisogno Pietro per giustificare il suo no. La prima volta è una frase, la seconda volta è una frase ripetuta, la terza volta è una frase più lunga, unita all'imprecare e al giurare, dove il verbo utilizzato, quello dell'imprecare, è un verbo greco molto forte che nella 70, cioè nella traduzione greca dell'Antico Testamento, viene utilizzato solo per indicare ciò che si vota la distruzione. Forse viene utilizzato questo verbo perché Pietro sta augurandosi il peggio se quanto afferma non corrisponde a verità, per cui alcuni traducono dicendo: mi accada questo o quello se non è vero ciò che dico. Non conosco l'uomo di cui parlate, cioè alcuni utilizzano proprio questa formula per tradurre quello che è l'imprecare di Pietro. Anche l'espressione "uscito fuori piangeva" è un'espressione un po' particolare nella lingua antica in greco, no? Perché viene utilizzato un verbo epiballo che può avere diversi significati, per cui alcuni lo traducono scoppiò in pianto, altri riflettendo sulla cosa scoppiò a piangere, altri lasciandosi andare piangeva, altri ancora precipitandosi fuori si mise a piangere. Ecco, noi abbiamo tradotto "uscito fuori piangeva" perché ci sembra coerente con il tipo di racconto marciano. Marco sottolinea questa progressiva uscita da parte di Pietro fuori da quella che era l'area del sommo sacerdote. E in tutta questa scena gioca un ruolo particolare il gallo, questo animale che a un certo punto fa sentire la sua voce in modo strano. Molti si chiedono: ma come mai questo viene dato come segno a Pietro? In fondo i galli cantano tutte le mattine, perché quella mattina doveva essere diversa? Ma si ritiene che nella Gerusalemme del primo secolo di galli non ce ne fossero, né di galline, perché allevare galli e galline era considerata una cosa impura, perché i galli e le galline stanno in mezzo ad ambiti non puliti. Fino ad oggi, se voi andate in Israele, notate che i galli e le galline vengono allevati in luoghi appositi e non a diretto contatto con la terra. Sono un pochino sollevati dalla terra, perché altrimenti questo li renderebbe degli animali impuri. In occasione della Pasqua, in una città santa come quella di Gerusalemme, avere a che fare con galli e galline non era considerato conforme alle norme di purità. Per cui alcuni ritengono che proprio questo rende straordinario il segno per Pietro. Ora, bisogna prendere questa interpretazione con il beneficio dell'inventario, però è un'interpretazione che andrebbe di per sé verificata. Interessante il modo in cui uno studioso della scrittura, Jean Delorme, spiega questo intervento. Lui commenta l'espressione dicendo: la voce del gallo riporta alla verità l'uomo, finalmente nudo, spogliato dall'immagine che si era costruito e che sosteneva con passione. Ascoltando questa voce che risveglia colui che non era riuscito a vegliare nella notte del Getsemani, Pietro crolla. Era necessario questo crollo per rinascere nella relazione con Gesù. Pietro ora dovrà ricostruire il suo essere con Gesù. È interessante questa spiegazione, perché se voi ricordate al capitolo 3, quando Gesù aveva chiamato i suoi, la prima cosa che aveva chiesto ai suoi è di stare con lui. Li chiamò perché stessero con lui e anche per mandarli a predicare, eccetera, e a scacciare i demoni. Ma il primo obiettivo era stare con lui. Ora Pietro, con il rinnegamento, si isola da Gesù, rompe questo suo essere con, per cui Jean Delorme giustamente dice: la voce del gallo fa crollare l'orgoglio di Pietro, che si era detto pronto a essere con Gesù fino alla morte. Tutto questo crolla e ora lo mette nella condizione di ripartire, di ricostruire il suo discepolato. E di questo crollo, di fronte per questo passaggio stretto, tutti i discepoli devono passare. C'è un momento di purificazione dove l'essere con Gesù deve essere totalmente reimpostato. Ecco, vi dicevo che questa scena richiama molto la pagina del Vangelo che abbiamo ascoltato ieri. Non so se ricordate, ma il brano di ieri, dopo la pesca miracolosa sul lago di Tiberiade, ci misura con questo Pietro che nudo si getta nel mare. Interessante, quando il discepolo amato dice a Pietro: è il Signore, Pietro, dice l'Evangelista, che era svestito, si veste e si getta a mare. Uno dice: ma scusa, quando uno si getta a mare si spoglia, mica si veste. Invece qua al contrario, Pietro era nudo, si veste quando sente che è il Signore e si getta in mare. Gli studiosi invitano a leggere questo episodio in chiave simbolica. Pietro era rimasto nudo dal giorno del suo rinnegamento. Ora che riconosce il Signore ancora operativo con lui, che opera miracoli attraverso di lui, attraverso lui pescatore e peccatore, gli restituisce la dignità. Quindi appena sa che è il Signore, mette ciò che esprime la dignità, cioè il vestito, e si getta nel mare per andare incontro al suo maestro. E appena incontra il suo maestro cosa fa? Dopo aver condiviso la mensa con lui, e quindi dopo avergli riconfermato la comunione, gli pone per 3 volte la domanda: mi ami tu più di costoro? Mi ami tu? Mi vuoi bene? 3 livelli dell'amore, dall'alto al bene più semplice, che riconfermano Pietro nella sua missione. Il triplice rinnegamento viene in qualche modo sanato dalla triplice domanda e dalla triplice risposta che Pietro dà. Ecco, riguardo al brano di ieri, a me piace sottolineare un aspetto che ieri nell'omelia ho messo particolarmente in evidenza, no? È il fatto che cosa fa scattare in Pietro, come dire, la rinascita del suo discepolato? L'incontro con il risorto. No, non basta l'incontro con il risorto, perché l'Evangelista Giovanni ieri ci diceva che era la 3ª volta che il risorto appariva ai suoi. Eppure non era bastato, è importante l'incontro con il risorto, ma da solo non basta. Allora cosa ha fatto scattare la rinascita di Pietro? La moltiplicazione dei pesci, il fatto che gettando la rete dalla parte destra della barca, la rete si sia riempita di pesci? Nemmeno, perché tanti altri miracoli Gesù aveva fatto e mica aveva sciolto il cuore di Pietro. Che cosa allora permette a Pietro il cambiamento oltre all'incontro con il risorto e al miracolo a cui Pietro assiste? È quell'espressione del fratello, cioè del discepolo che Gesù amava, che accanto a lui gli dice: è il Signore. È il fatto di avere accanto a sé un fratello che è avvolto dall'amore di Dio e che sa riconoscere Dio e quindi aiuta Pietro a leggere quella situazione particolare della storia sua personale, aiutando a mettere insieme quei tre elementi, a mettere insieme l'incontro con il risorto, la fiducia in se stesso per la pesca miracolosa che è avvenuto e a ristabilire la comunione con la comunità. Il discepolo amato rappresenta il resto della comunità. I tre elementi su cui Pietro ha fatto il rinnegamento, ha rinnegato Gesù, ha rinnegato la comunità, ha rinnegato se stesso, ora li ritroviamo nel brano del Vangelo di ieri, anche se appartiene a un altro evangelista, Giovanni, che richiama il triplice rinnegamento di Pietro, risanando questi tre aspetti, cioè l'incontro con il risorto, l'incontro con la comunità e l'incontro di Pietro con se stesso, ma ciò che fa scattare proprio quell'espressione è il Signore, tanto vero che il testo dice appena udì che era il Signore, si cinse la veste poiché era svestito, era nudo e si gettò nel mare per andare incontro al suo maestro. Ecco allora anche qua il terzo rinnegamento, la terza scena che ci riporta il rinnegamento di Pietro, ci ricorda gli elementi del discepolato cristiano e gli elementi su cui agisce il peccato. Gli elementi del discepolato cristiano sono sempre elementi che coinvolgono la fede in Gesù, ma anche la fede in una comunità e la fede nella nostra dignità di figli. Il peccato va a minare sempre questi tre aspetti, quindi è un rinnegamento non solo di Gesù, ma della comunità di appartenenza e della dignità profonda di noi stessi. Allora è un invito quasi questa pagina a chiedere al Signore la grazia di avere sempre accanto nei momenti difficili, nei momenti di rinnegamento della nostra storia, qualche fratello, qualche sorella, che sperimentando l'amore di Dio su di sé ci sappiano dire: è il Signore. E quindi non solo ci aiutino a leggere la storia, ma a rilanciare la nostra vita in una donazione piena, totale. Ecco, cari ascoltatori, abbiamo terminato il nostro commento. Come vedete, questa parte del commento toccava tutta la parte della prima parte della condanna di Gesù da parte del Sinedrio, nello stesso tempo e nello stesso luogo, ciò dà unità a tutto il racconto. Adesso viene la parte più bella, che è quella delle vostre domande. Come dico sempre, le vostre domande sono parte integrante della nostra trasmissione. La nostra trasmissione non è costruita solo dalle parole che vi dico io. Le parole che dico io possono contenere delle sfumature mancanti, possono essere parziali, possono essere condizionate dal mio qui e ora. È importante quindi il vostro intervento, i vostri interrogativi. Sono questi che permettono allo spirito di dare i tocchi più belli a quella che è la condivisione della parola di Dio, che possono diventare anche molto utili non solo a chi parla, ma anche a chi ascolta. Quindi ora lasciamo un altro spazio musicale in modo che voi abbiate la possibilità di formulare le vostre domande, possibilmente sui brani che abbiamo commentato insieme, e questo ci darà modo di continuare a crescere attorno a questa pagina del Vangelo di Marco. Pronto? Pronto? Buonasera, Don Giacomo. Con chi parlo? Buonasera. Sono Sonia da Taranto. Io La risposta me la sono data, però volevo sentire il suo pensiero. Gli apostoli vivono con Gesù per 3 lunghi anni e lo guardano sempre, lo vedono, ma com'è possibile che non lo riconoscono? Non riconoscono la sua voce, non stanno lì, eppure lui parla nello stesso modo, anche quando dice di buttare la rete, no? La parte destra, e quindi era stato il primo incontro quando poi chiamò Pietro, no? Non lo riconosco. Ed è soltanto quando poi c'è Giovanni che gli dice che era Gesù. Però la cosa strana è che comunque non cioè, come si fa a non riconoscere? Vuol dire che è cambiato. Cioè, non so se. Certo. No, capisco molto bene la sua domanda. Allora, la risposta che io darei a questa domanda è duplice. La prima è una risposta più superficiale per quanto riguarda il brano del Vangelo di ieri. Il brano del Vangelo di ieri può avere, diciamo, sorridendo, il beneficio dell'inventario, perché l'Evangelista precisa che la barca era a 100 metri di distanza. Quindi a 100 metri di distanza magari non si può vedere bene, ma ripeto, questa è una risposta superficiale. La risposta vera e propria è questa. Per riconoscere il Maestro sono necessari, bisogna mettersi sulla sua stessa lunghezza d'onda. Nel momento in cui Gesù è risorto, Gesù entra in una dimensione nuova che ha trasfigurato la sua realtà umana. Per cui per riconoscerlo occorre entrare in questa realtà trasfigurata, altrimenti è impossibile e difficile riconoscerlo. La scena più evidente di tutto questo è la famosa scena riguardante Maria di Magdala. In quel primo giorno dopo il sabato Maria di Magdala è un disastro, aveva bisogno non di un ottico ma di un'intera operazione alle cataratte, perché arriva alla tomba, vede gli angeli seduti e non si smuove di una linea, sembra che abbia visto una persona qualunque, e invece c'è un angelo dalla parte del capo e uno dalla parte dei piedi, non si smuove, non si turba di niente, perché? Perché ha queste lacrime, cioè questa visione delle cose ancora legata alla terra. Si gira, vede Gesù e lo scambia per il custode del cimitero, il becchino diremmo noi, il giardiniere dicono altri, finché c'è quel nome che le richiama alla sua identità più profonda e quindi la porta quasi ad uno sguardo trasfigurato, e allora lì, solo in quel momento, riconosce il Signore. Tra l'altro i primi 20 versetti del capitolo 20 di Giovanni sono interessantissimi da questo punto di vista, perché raccontano una vera e propria pedagogia del vedere, del verbo vedere. Per chi conosce un po' il greco, coglie tutte le sfumature, no, dei diversi verbi che vengono utilizzati, e si passa dal livello più basso, che è il livello fisico, del vedere fisico e quindi della constatazione fisica delle cose, al livello più alto, dove il vedere diventa una contemplazione che spinge all'annuncio. C'è proprio una gradazione in 7 tappe, anche qui il numero non è casuale, dove l'ultima tappa, quella la settima, è la pienezza del vedere. Mi permetto, cara Tonia, di fare anche un'applicazione al nostro quotidiano. Lei dice, ma com'è possibile che dopo 3 anni non riconoscono il Signore? Io dico, com'è possibile che dopo 2000 anni di storia noi non riconosciamo il Signore? Il Signore è presente nel nostro fratello. Basta uscire dal cancello della mia comunità, io sono un paolino, sto a Cinisello Balsamo, dove abbiamo la nostra casa editrice, e fuori del nostro cancello c'è la parrocchia, la nostra parrocchia, la parrocchia di appartenenza, la parrocchia di Cinisello. E alle porte di quella parrocchia c'è sempre il classico indiano che chiede l'elemosina e ti dà una rosa. Quante volte si passa e niente, oramai è diventato parte della coreografia, non ci si accorge nemmeno più che c'è, eppure lì c'è il Signore. Come faccio a non accorgermi che il Signore è lì? Oppure quando scendo, tra poco scenderò scenderò a cena, avrò i miei confratelli accanto, no? E c'è il confratello che mi è più simpatico e c'è anche quello meno simpatico che mi pesta i piedi tutti i giorni. Com'è che non riconosco che anche lì c'è il Signore presente? È il Signore presente. Cioè, il riconoscere il Signore che cammina accanto alla nostra vita, nella nostra quotidianità, richiede davvero un'anima trasfigurata, che si mette in un'altra lunghezza d'onda, che non è la lunghezza d'onda dell'orizzontalità, che è quella puramente umana, ma che richiede un'altra lettura delle cose. E questa lettura delle cose ci obbliga a porci secondo una prospettiva, un punto prospettico diverso che è il punto prospettico di Dio. Grazie, Tonia, per la tua domanda. Pronto? Pronto, con chi parlo? Sono Eliseo di Roma. Eliseo, che bel buonasera, nome. Padre. Buonasera. Eliseo. Sì, un bel nome. Profeta. Esatto, mi dica. Senta, padre, ascoltando attentamente la sua lezione, mi è venuto questa perplessità. Cioè, si fa, anche lei, come tantissimi altri sacerdoti, si consiglia ricorrentemente nella lettura della parola del Signore, nella lettura dei brani del Vangelo, si consiglia la lettura per simbolismo, cioè vedere le simbolicità di tutta una serie di situazioni. Il che mi pare molto bello perché la parola di Dio è così ricca che ogni volta che si legge suscita sempre qualcosa di nuovo, quindi gli aspetti dei simbolismi sono per me molto interessanti. Ma non si rischia di perdere di vista comunque il fatto, perché il Vangelo parla comunque di fatti dove e con i quali la parola suscita anche quelle che sono quegli approfondimenti, quelle ricchezze ulteriori, ma c'è anche il fatto, è tutto qua, non vorrei certo. Che comunque il fatto venga perso di vista, la ascolto certo. Per radio immagino. Sì, grazie signore Eliseo per questa sua domanda, le dicevo il suo nome è bello, mi richiama proprio quella scena dove si racconta, no, che Eliseo, che viveva con una comunità di profeti, si trovò insieme a questa comunità che non poteva più bere, no? E guarì gettando del sale nella sorgente d'acqua, sanò quella sorgente permettendo alla comunità non solo di ritrovare la forza vitale, ma anche di crescere e di rifiorire. Allora il nome Eliseo mi richiama sempre l'immagine del profeta che risana le acque della sua città, che restituisce la vita, quindi ha una bella missione. Ecco, la sua domanda è preziosa. Il simbolo non rischia di limitare o mettere in secondo piano il fatto, quindi l'essenza storica, immagino che lei voglia dire, degli eventi. Per certi aspetti può esserci questo rischio, dipende da come lo si interpreta, però non dimentichiamo che anche il fatto può avere un altro rischio, cioè se io mi limito al solo fatto, rischio di limitare la cosa che è successa in quel determinato momento, dicendo ok, è successo 2000 anni fa, basta, punto, è un fatto, basta, non mi tocca. Il simbolo cosa permette? Il simbolo permette al fatto di aprirsi e di mantenere una validità che percorre tutta la storia. Quindi la capacità di unire la duplice dimensione, cioè di leggere il fatto nella sua storicità, ma di coglierne la portata a livello così ampio del termine, è importante. Per fare un esempio, quando io ho commentato questa sera la falsa testimonianza, no, che viene condotta contro Gesù dicendo distruggerò questo santuario costruito da mani umane, in 3 giorni ne edificherò un altro non costruito da mani umane, ho riportato il dato, il fatto. Il fatto qual era? Nel primo secolo si riteneva che il Tempio sarebbe stato distrutto da Dio per instaurare un Tempio nuovo, che sarebbe stato quello del Messia. Questo è il fatto, cioè il dato storico. Il dato storico, i documenti storici che noi abbiamo, i testi a nostra disposizione, ci dicono che si aspettava una cosa del genere, quindi i falsi testimoni dicono questa cosa avendo sullo sfondo questo dato di fatto. Il simbolo cosa ci dice? Attenzione, c'è questo dato di fatto, ma c'è anche un altro significato importante, che è quello di passare dalla pietra dalla pietra in quanto tale, dalla pietra come elemento fisico, alla pietra viva che è la comunità. Cioè Marco, attraverso questa immagine, spinge ad una lettura simbolica, dove a Dio, al Signore, non interessa l'edificio di pietre, ma interessa la pietra viva, le pietre vive della comunità, l'edificio di carne che è la comunità. E allora vede che il fatto è importante per cogliere l'episodio, però il fatto viene allargato dal simbolismo al punto che interpella noi stessi. E mi interpella al punto tale che mi dice: attenzione, perché tu nella tua fede oggi, 15 aprile 2014, rischi di fare lo stesso errore della comunità del primo secolo, che magari dà più importanza all'edificio fisico, dimenticando che se quell'edificio non è abitato da pietre vive, che sei tu con la comunità, quell'edificio non ha tanto ragione d'essere. Può essere, può rappresentare lo stesso rischio che ha rappresentato nel primo secolo. Ecco, quindi quello che lei dice è molto vero. L'abilità la sapienza, se volete dire, se vogliamo dire, del lettore della scrittura, è quella di saper tenere questo equilibrio tra il fatto e il simbolo. Un equilibrio, certo, non facile da costruire, ma adagio adagio, con un po' di esercizio, con il confronto, si può avere, quindi evitando il rischio di evidenziare una cosa o l'altra. Grazie Eliseo per la tua domanda. Pronto? Pronto, buongiorno padre, sono Beppe dall'Elba. Bene. Allora, sentendo la sua trasmissione sul processo a Gesù, dove per condannarlo la casta sacerdotale del tempo ha dovuto ricorrere ad accuse false, e diciamo era messa a rischio nel suo establishment proprio dalla verità dirompente che ha portato Gesù. E io vedo un parallelo anche, per esempio, con quello che è successo con Padre Pio, perché Padre Pio è stato processato e condannato dalla casta sacerdotale del nostro tempo e con accuse false. Questa, certo. Lo so che è una domanda un po' scomoda, però è molto sentita e sono sicuro non solo da me. Io credo che, vabbè, forse le ho già detto abbastanza, preferisco ascoltarla per radio. Spero. La ringrazio Beppe per la sua domanda. La sua domanda è centrale, non è solo una domanda scomoda. E certo, ci sono alcuni fatti della storia che ci risultano scomodi ripercorrere, ma che di fatto sono così e che caratterizzano a volte la logica di Dio. Lei ha portato l'esempio di Padre Pio, ma prendiamo i grandi profeti della storia. Quale profeta non è stato scomodo? Basta percorrere tutte le figure dell'Antico e del Nuovo Testamento fino ad arrivare alle figure di oggi, pensiamo a un Don Milani, che ha rivoluzionato il discorso della pedagogia, dell'educazione, dell'impegno sociale, politico, non è certo stato applaudito né dentro né fuori. Pensiamo a figure come Don Primo Mazzolari, un'altra figura, Divo Barsotti. Ho avuto modo per la presentazione di un nostro libro di Tognetti proprio che presentava la vita di Livo Parsotti, di percorrere la vita di quest'uomo dall'inizio alla fine. Io sono rimasto colpito da quello che questa persona ha dovuto patire, con addirittura l'impedimento all'insegnamento, al punto tale che ci sono stati dei momenti in cui lui si è dovuto chiudere nel silenzio per le accuse immotivate che venivano, però sono i grandi profeti attraversano questo, tutti coloro che sono beati, santi, in qualche modo attraversano esperienze del genere. E oggi mi piace ricordare, alla vigilia del compleanno di Benedetto XVI, domani è il giorno del suo compleanno, mi piace ricordare anche lui. Benedetto XVI è stato oggetto di attacchi immotivati, di interpretazioni non corrette di quello che... Perché? Perché c'era tutto l'interesse di far passare una certa immagine di lui, perché dava fastidio quello che voleva comunicare, dava fastidio quello che annunciava. E ogni profeta passa attraverso questo misterioso crogiolo. E del resto Gesù ce l'ha detto. Il discepolo non è da più del maestro, se hanno perseguitato me perseguiteranno anche voi, se hanno umiliato me umilieranno anche voi. Il punto è come reagiamo di fronte a questo. Ecco, lì a volte casca l'asino, nel senso che non tutti siamo capaci di reagire con quell'atteggiamento di grande dignità che non solo Gesù ha saputo portare, ma anche i grandi profeti come Padre Pio o come quelli che ho menzionato, una risposta di grande dignità davanti alle accuse false che sono state a volte rivolte nei loro confronti, perché il loro cuore era abitato da una certezza, la certezza di essere strumenti poveri nelle mani di Dio, e Dio se ne sarebbe potuto servire sia nei momenti di successo sia nei momenti di fallimento, dando quasi carne a quella voce, a quell'espressione tipicamente paolina, dove dice: quando sei debole è allora che sei forte, perché l'azione della grazia agisce così. Grazie Beppe per la tua domanda e la tua riflessione. Pronto? Pronto? Sono Maria da Chiavari e forse ripeto un po' insomma quello che hanno già chiesto, ecco, però io quello che mi meraviglio sempre, che non sia il tempo di Gesù, che non è che al giorno d'oggi, non è che abbiamo la testimonianza di una discussione, di un contraddittorio, è vero che è lo Spirito Santo che poi ci salva, eccetera, eccetera, però non c'è stata una discussione, Gesù a suo tempo, come adesso, gli ebrei aspettano il Messia, no? E lui ha fatto un mucchio di miracoli, ha detto delle cose meravigliose che già lo riconoscevano al suo tempo, no? Che diceva delle cose bellissime e ha fatto un mucchio di miracoli che penso che nessuno l'avesse mai fatti prima, no? Ecco, e perché non c'è stata una discussione, perlomeno di mettere in dubbio che fosse il Messia? E come adesso anche, che c'è il confronto fra le religioni, non c'è mai una discussione, è vero, come ripeto, è il Signore poi con lo Spirito Santo che ci convince, che ci fa capire delle cose meravigliose e che ci fa sentire che siamo nella verità, però se ci fosse anche una discussione, dico dal punto di vista mentale, è vero che la mente è pur sempre prodotto del corpo, quindi non è che, però una discussione dal punto di vista razionale, eccolo, è quello che secondo me manca, perché ci sono tante persone che sono magari nel dubbio, che sono nell'incertezza, che magari una spinta anche dal punto di vista razionale di dire, faccio per dire, la religione anglicana è venuta fuori, lo scisma, perché il re voleva quello che voleva il divorzio e il Papa non gliel'ha dato, al giorno d'oggi dovrebbero capire che è un assurdo, ecco, io lascio, scusi, la mia ignoranza, la mia, ecco, grazie. Grazie signora Maria per il suo intervento. Allora, se noi ci basiamo, no, su il racconto della passione, morte e risurrezione di Gesù nei Vangeli, notiamo proprio un aspetto che lei ha bene messo in evidenza, cioè a Gesù sembra che le cose siano andate in modo tale da non permettergli di avere il tempo di un contraddittorio, cioè la condanna a morte è stata scandita in passi così veloci. Qui c'è anche un po' tutto il discorso della cronologia di quei giorni, no? Ma se noi ci basiamo sul quarto Vangelo, che è un pochino la linea oggi più accreditata nell'ambito degli studi, siccome si era oramai alla vigilia della Pasqua, cioè a quella famosa notte dove veniva rievocato la liberazione del popolo dall'Egitto, tutto doveva essere concluso entro un preciso termine, altrimenti doveva essere rimandato poi per i giorni successivi, addirittura per 7 giorni dopo, quindi c'era tutto l'interesse a far tutto in fretta, ecco perché è stato arrestato in quel momento, ecco perché il Sinedrio si è riunito di notte, subito l'hanno portato da Pilato in modo che venisse condannato, hanno fatto pressioni su di lui appellandosi a Cesare e subito dopo è stato messo a morte, cioè non si voleva dare lo spazio per arrivare ad un contraddittorio, la cosa era voluta, ma è interessante anche il modo, questa è la lettura, se vogliamo, umana. L'altra lettura è quella spirituale, cioè è chiaro che da un punto di vista umano uno dice, ma perché non è, dopo tutto quello che aveva fatto, perché non c'è stato lo spazio per un contraddittorio che avrebbe almeno permesso di, come dire, convincere le teste che stavano andando in una direzione sbagliata. Dall'altro lato c'è però la lettura spirituale dell'Evangelista, no? Che ci dice, inizia il racconto della passione dicendo, dopo aver amato i suoi che erano in questo mondo, li amò fino alla fine. E questo amare fino alla fine, come viene descritto lungo tutto il percorso della passione? Come un amore che da un lato lascia totalmente libero l'interlocutore, colui a cui si rivolge, colui a cui si dona, e dall'altro è un amore che si spreca, è all'insegna dello spreco totale, per cui c'è questo rifiuto e più è alto il rifiuto più questo amore si dona, fino al punto che nel momento in cui Gesù muore sulla croce dona tutto se stesso uscendo dal costato acqua e sangue, quindi la totalità del suo essere, ai piedi della croce, a parte poche persone che sono rimaste fedeli, tutto parla di bestemmia, di insulto, di rifiuto. Eppure è quello il mondo che Gesù è venuto a salvare. Ecco, e questo è ovvio, ci mette in una logica molto particolare, che ci ricorda che il cristianesimo non è una fede che si fa strada a forza di, come dire, di azioni forzate di convincimento. Certo, noi dobbiamo rendere ragione della speranza che è in noi, ma ricordandoci sempre che il messaggio stesso, il cuore stesso della fede che noi professiamo e portiamo, ha al suo centro questo benedetto mistero della croce, e il mistero della croce ci parla di un amore che lascia liberi, di un amore che arriva fino allo spreco totale di sé, di un amore che vince morendo. E questo, sapete, è facile a dirsi, no? Però è tutta un'altra cosa quando si tratta di, come dire, di viverlo e di convincere la nostra testolina che bisogna andare in quella direzione, perché noi per la nostra struttura umana non siamo portati umanamente a vivere una cosa così. L'uomo per sua natura è portato a, come dire, non dico ad affermare se stesso, però a non rinnegare il proprio io, mentre il cammino dell'amore è un cammino che porta alla spoliazione. Pensate a una degli emblemi, no? dell'amore autentico, che può essere quello del rapporto tra genitori e figli, tra un padre e il figlio, tra una madre e un figlio. La crescita equilibrata di un figlio avviene nella misura in cui c'è l'amore oblativo dei genitori, di questi genitori che sanno spogliarsi un pochino di se stessi e delle proprie pretese per mettere al centro un'altra persona, ma al centro nel modo giusto. Mettere al centro non significa anche lì accontentare sempre, no? Ma a volte accettare di provocare la tristezza del figlio per insegnargli la strada giusta. E i genitori sanno quanto a volte questo è costoso, quanto a volte costa rimproverare il figlio o causargli delle lacrime, causargli dolore, eppure fa parte di quel percorso che è tracciato per l'amore. Grazie Maria da Chiavari per la sua meditazione, la sua riflessione. Pronto? Pronto? Pronto, buonasera. Con chi parlo? Buonasera. Buonasera, sono José dalla Sicilia. Le volevo fare una domanda. Sì. Quando Gesù ha dato le chiavi del regno dei cieli a Pietro? Quando lui si è ravveduto dalla sua dignità di figlio di Dio? Oppure? Mi può dare una risposta? L'ascolto per radio. Va bene. Allora, vedo che la sua è stata una domanda proprio diretta, voluta, precisa. Quando Gesù ha dato le chiavi del regno a Pietro? Allora, qua è proprio uno dei casi in cui bisogna stare attenti nell'interpretazione o nel rispondere, perché ci sono i due livelli, cioè il livello del fatto e il livello del simbolo. E in questo caso bisogna tenere proprio l'equilibrio. Nel contesto della narrazione, quindi dei fatti riportati dalla narrazione, Gesù riceve le chiavi del regno durante il ministero pubblico. Siamo nel contesto del percorso di discepolato, nel momento in cui Gesù sta presentando la sua identità, chiede, chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo, vengono date le diverse risposte. In quel contesto, di fronte alla risposta di Pietro, Pietro viene elogiato dicendo: nella carne e nel sangue te l'hanno rivelato, il Padre mio che è nei cieli te lo ha rivelato, e a te Dio darà le chiavi del regno dei cieli, tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, eccetera. Quindi questo viene riportato nel Vangelo di Matteo, nel contesto proprio della professione di fede di Pietro. Ovviamente questo dice l'estrema, la grande fiducia che Gesù ha in Pietro, però dobbiamo tenere presente anche un'altra cosa: gli Vangeli vengono, come dire, redatti, elaborati alla luce della fede pasquale. Cioè, non è che Gesù va in giro a predicare e i discepoli, purtroppo c'è qualcuno che dice anche questo, però va subito detto che le cose non potevano venire così. Non è che Gesù va in giro a predicare, i discepoli prendono appunti e poi, così un giorno, mentre Gesù non c'è più, decidono di mettere insieme gli appunti e di costruire il Vangelo. La cosa è un pochino diversa. I discepoli vivono un cammino di discepolato, il mistero pasquale rivela il senso di quel discepolato, attorno ai discepoli si costruisce una comunità. La comunità come si tiene viva? Si tiene viva grazie alle scritture che ha tra le mani, l'Antico Testamento, che viene riletto alla luce dell'evento di Gesù. Se voi ricordate, i discepoli di Emmaus come vengono portati al messaggio della risurrezione? Attraverso la rilettura dell'Antico Testamento, cercando di cogliere nell'Antico Testamento ciò che la legge e i profeti dicevano di lui. Poi, adagio, tutto questo si unisce anche alla memoria di Gesù, alla memoria dei suoi fatti, alla memoria di quanto ha detto, alla memoria del cammino di discepolato e del ruolo che ognuno, della relazione che ognuno all'interno dei dodici aveva con Gesù. Ecco, a quel punto, nell'ottica della fede pasquale, si riconosce che la comunità che Gesù ha pensato dei suoi è una comunità dove tutti vivono una comunione particolare, l'uno con l'altro, ma dove ci sono anche ruoli distinti. E a Pietro viene riconosciuto quel ruolo che nella comunità dei dodici Gesù gli ha dato. Noi lo notiamo all'interno dei Vangeli, Gesù vive dei rapporti diversi con i dodici. Uno è il rapporto con Pietro, un altro con i cosiddetti tre discepoli prediletti, noi aggiungiamo i prediletti, ma sono tipologie di rapporti diversi, e poi c'è il rapporto che Gesù aveva con tutti i dodici e poi con tutti gli altri ancora. Non è che uno è amato di più o uno è amato di meno, sono amori diversi, perché a ognuno viene affidata una responsabilità diversa. È l'immagine anche che Gesù usa quando racconta le parabole e invita i suoi ad essere come quei servi che attendono il ritorno del loro padrone. Allora ci sono alcuni servi a cui viene dato il potere di vigilare, altri che sono destinati a stare sulla porta per attendere il ritorno, altri che hanno le chiavi per gestire i beni del padrone. Quindi sono responsabilità diverse. Quindi rispondere con precisione alla sua domanda non è possibile, se prima o dopo. È sicuramente un incarico, un ministero che gli è stato affidato lungo tutta la sequela e che trova il suo compimento massimo solo nel mistero pasquale. Ricordiamo, al momento della risurrezione, gli angeli, il giovane che annuncia o l'incontro con il risorto, fanno sempre riferimento a Pietro e dicono: andate in Galilea e dite ai miei discepoli che là mi incontreranno. E ditelo in modo particolare a Pietro, cioè Pietro viene sempre evocato in modo particolare, quindi non è che c'è un momento, anche se nella narrazione questo viene poi raccontato in un episodio, non è che c'è un momento in cui vengono date delle chiavi a Pietro, e non erano certamente delle chiavi fisiche, ma c'è tutto un percorso che porta a riconoscere ad uno dei dodici questo servizio particolare che poi si è perpetuato lungo la storia in coloro che sono stati successori di Pietro. Grazie per questa sua domanda. Pronto? Penso che siamo arrivati all'ultima domanda. Mi dica. Ecco, allora sono Loretta e la sto chiamando da Milano. Senta, una cosa che mi è sempre rimasta un po' impressa. Dunque, questi apostoli su questo lago di Trieste, parlo della pesca miracolosa, non riesco a capire in quel contesto, cioè riconoscono Gesù e alla fine riconoscono Gesù perché dice buttate la rete sulla destra e poi non riesco a capire i 153 pesci, in quel contesto di emozione, di tutto, ma si mettono a contare i pesci, deve avere un significato specifico per cui il Vangelo dice avevano pescato 153 grossi pesci e lui voleva mangiare di quei pesci lì, non di quelli che c'erano già sulle braccia e che diciamo erano già pronti. Quelli erano l'antipasto, per far sentire il profumo ai discepoli. Grazie per la domanda, perché effettivamente quel numero è simbolico. Anche qua vedete l'importanza di giocare sul duplice rapporto, il fatto e il simbolo. 153 grossi pesci, grossi. È ovvio che non c'è stato il tempo per contarli, anche perché Pietro è sempre preso da slancio, va, tira sta rete, prima non riuscivano a portarla con le barche, lui da solo si trascina la rete piena di 153 grossi pesci. Le interpretazioni di questo numero sono le più diverse, ne sono state date tante. Io ne evidenzio una sola, che è quella che mi convince di più. La tradizione ebraica ritiene che nel momento in cui c'è stata la confusione delle lingue ai piedi della Torre di Babele, i popoli, le lingue in cui il popolo sarebbe stato disperso erano 153. Quindi quei 153 grossi pesci altro non rappresentano se non tutte le tipologie di popolazioni presenti nel mondo. Queste 153 grossi pesci, i pesci rappresentano tutte le razze umane, per cui il Signore non vuole far altro che radunare attorno a quella mensa a cui ha chiamato Pietro tutti i popoli della terra. E la mensa è una sola, quindi, dove discepoli, risorto e le 153 lingue presenti nel mondo sono rappresentate. Ecco, mi sembra che questa possa essere una delle tante interpretazioni, però è quella che mi convince di più, quindi è la risposta che ho sentito di dare. Ecco, ringrazio tanto tutti voi che siete intervenuti, da Tonia di Taranto a Eliseo di Roma, Beppe da Elba, Maria da Chiavari, José da della Sicilia e poi l'ultima nostra ascoltatrice, Loretta da Milano, con questa sua bella domanda. Vi ringrazio per aver condiviso questo momento di ascolto della parola di Dio e soprattutto per aver fatto emergere attraverso le vostre domande altre sfumature stupende di questa parola che ci sta accompagnando passo passo. A tutti voi auguro un tempo pasquale in attesa del grande dono dello Spirito Santo. Un caro saluto e una benedizione a tutti voi. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.